Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Sono fiera delle mie unghie, eccole qui, una per una. Sono in campo avanti. Io non ho paura di invecchiare, non ho paura di morire. Adoro la vita e trovo che l'amore è meraviglioso. Tutte le donne sono giovani, tutte le donne sono belle, tutte le donne hanno 20 anni. Forza dai, che arriva presto l'ora della fine della trasmissione. Bisogna oggi parlare delle donne. No, nessuno me lo impone. Ho fatto una riflessione, voglio saggiare il grado di emancipazione del mio pubblico, soprattutto femminile, ma emancipazione da cosa? Dalla annuale funera ricorrenza della festa della donna. So che ormai è anche un esercizio sin troppo consunto fare gli antifesta della donna, quando per troppi anni ormai siamo stati invasi dal giallo totale della mimosa. Già i signori del Bangladesh stanno preparando i pacchetti con le mimose, con la carta argentata, e già saranno pronti ai semafori domani a distribuirle a tutti. Perché? Perché guarderanno perplessi, loro che nel loro paese hanno tutt'altra considerazione delle donne. Ma vedi, oggi gli italiani danno le mimose alle donne, chissà perché, vendiamo le mimose ai semafori. Tutti comperanno un rametto di mimosa, quelli un pochino più âgé li porteranno alle colleghe di lavoro e saranno contenti. Che bella la nostra festa, metteranno la mimosa nel loro vasettino sulla scrivania, dove stanno le foto dei mariti, dei figli, stanno le sorprese dell'ovetto kinder, stanno tutte le cose che permettono di svolgere una normale giornata di lavoro. Poi magari il pomeriggio le donne usciranno un po' prima dal lavoro, si organizzeranno. Domani sera vedremo quelle tristissime pizzate tra donne, locali già pieni di donne sempre normalmente, perché gli uomini non escono più, stanno a casa, si spaccano le gambe giocando a calcetto, guardano le partite, escono già le donne da sole. Ma domani sera avremo frotte di donne che usciranno da sole, così con questa euforia, sì siamo sole, siamo libere, che facciamo? Che ne so, andiamo a mangiare la pizza. Le più ardite andranno in qualche localino dove forse magari c'è anche l'ometto che fa lo spogliarello, ma è una cosa antica, vecchia, ormai è un passatempo anziane signore che vanno così, non lo so, a cercare di rompere la monotonia dopo aver giocato a baracco tutta la sera nel centro anziani. Beh, domani comunque qualcuno parlerà delle donne, sarà anche una donna che impegnate faranno sciopero. Questa mattina sentiamo i miei colleghi, domani facciamo sciopero, chissà che sciopero fanno domani le donne, forse come Lisistrata e le donne ateniesi che non l'hanno più date ai loro mariti finché non finiva la guerra, e questi giravano con dei pali che uscivano fuori dalle loro toghe perché dice facciamo la pace, facciamo la pace, e tutto torna come prima. È questo lo sciopero che domani faranno le donne? 800 24 00 24, datemi spunti per non annoiarmi domani, il giorno della festa della donna. A tra poco. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Melog, Cronache meridiane. La donna ideale, secondo l'opinione di 3.000 single, è una donna che abbia un lavoro e guadagni più del partner, sia amante del vino, ma beva nei limiti, esca senza trucco, sia più bassa dell'uomo, sia sportiva, guidi bene, ami le serate fuori con gli amici, ma anche la famiglia e i figli, sia una buona forchetta e un'abile cuoca, ma anche che sia magra e ben curata. Ami il calcio in TV, sia pronta in 10 minuti e che sia felice qualunque cosa indossi. Abbia una grande carica erotica e che faccia sesso in qualsiasi momento. sia laureata, abbia un sorriso dolce e un sedere piccolo e sodo, capisca le barzellette, ami poltrire a letto, piaccia ai tuoi amici, non abbia le mani bucate. Piccolo e sodo, poi è da vedere, esiste sempre l'antica e marcescibile teoria dei tre palmi. Comunque non voglio oggi fare una trasmissione maschilista, non voglio seguire il trend dell'ascoltatore già mi ha scritto l'SMS. Il solo scopo della donna nella vita è di essere sollazzo dell'uomo. Domani farò un bel fiocco sul mio pacco esagerato e voilà, le cadeau pour ma femme. Cadeau pour ma femme. Beh, può essere che il cadeau se lo sia già preso oggi o stia prendendo da qualcun altro, caro amico. Non è esattamente così che ci si rivolge al mondo femminile. Oggi vorrei proporre agli ascoltatori, soprattutto all'ascoltatrice, una terza via, una via diversa, che sono due gli atteggiamenti. Quello appunto dell'ascoltatore che parla del pacco esagerato, del regalino col fiocchetto, la donna che sembra che sta lì a non aspettare altro che gli arrivi il pacchettino infiocchettato. L'altro è quello che domani farà l'ipocrita, farà finte, si allineerà, starà dalla parte delle donne, farà l'elenco vero, reale, concreto, doloroso, non voglio riderci sopra, delle donne vessate, le donne maltrattate, delle donne picchiate, le donne uccise, delle donne sottomesse, delle donne sottostimate, le donne sfruttate. È verissimo. Non so quando è iniziato questo problema per l'umanità di porsi come dilemma quello della parità tra i generi, della parità tra i sessi, ma è comunque una conquista di civilizzazione, fa parte della nostra contemporaneità. In realtà noi siamo, soprattutto noi uomini, e lo devo dire, lo devo confessare, siamo in un grande bivio, in un grande discrimine. Da una parte ci sentiamo civilizzati, culturalmente civilizzati, ci rendiamo conto che quella sorta di piacere che a noi darebbe conforto, centralità, autostima, di avere un mondo femminile di donne sottomesse, adoranti, celebranti, odalische, farebbe sì tanto piacere, inutile negarlo. Dobbiamo dire che questo non sia bello per un uomo, però dobbiamo capire che il mondo è cambiato. Le donne ormai sono una parte integrata della nostra vita, della nostra economia, della nostra cultura, del nostro quotidiano. Non possiamo più soltanto formalmente pensare che ciò sia una realtà e dentro di noi mantenerci come l'ascoltatore infiocchettato. Qual è una via onesta per poter dire sì, domani anche io penserò comunque che esistono le donne in maniera diversa rispetto al consueto? Anna Maria, buongiorno. Buongiorno. Niente, ascoltavo le sue riflessioni e gli spunti che offre. Effettivamente io di solito ho visto nella festa della donna questa formalità e a volte mi è sembrato anche un po' banale, non vorrei dire fino anche squallido immaginarmi queste situazioni di queste donne che escono, finalmente si divertono, hanno un momento tutto per loro. Però forse non è solo questo, forse è semplicemente una festa come può essere la festa della mamma, la festa dei nonni, la festa del papà. Che infatti sono boiate assurde che andrebbero eliminate secondo me, perché sono quelle ritualità che non hanno più nessun senso, come le feste dei patroni che non ci crede più nessuno. No, è vero, ma no, può essere magari quando si è bambini, non lo so, diverte la festa della mamma. No, le ritualità alla fine servono sempre perché sono dei punti, rimangono come dei punti di riferimento. È sempre però non cambiano la realtà, la sostanza dei fatti. Domani non ci sarà una donna a cui non verrà gettato l'acido in faccia solo perché è l'8 marzo, non ci sarà una moglie che non sarà bastonata al marito perché è l'8 marzo, non ci sarà una donna sfruttata sul lavoro perché è l'8 marzo. Ma non c'è solo questo. Sì, chiaro, è logico. C'è una realtà femminile che, per quanto possa non essere raccontata, come diceva poc'anzi, lei è concreta nel lavoro, sempre più presente. E poi comunque a volte io penso che certi ruoli femminili che sono andati a sparire, certi ruoli dominanti in seno alla famiglia, il punto di riferimento, il cardine del focolare, dove l'uomo invece rappresenta l'occhio del mondo per i figli, il fatto che si siano sbiaditi questi ruoli, un po' di confusione l'ha creata. Quindi lei mi dà un consiglio, Anna Maria, ristabiliamo il senso di questi ruoli. Guardi che potrebbe essere anche una soluzione, le do subito uno spunto reale, concreto. Tempo fa, ma parecchio tempo fa, io sottoposi un decalogo della donna ideale, lo sottoposi quasi condividendolo in pieno, e anche oggi sono pronto a sottoporlo come una sorta di sfida all'8 marzo. Potrebbe essere che questo sia in realtà la risposta contemporanea all'8 marzo. Iniziamo a sentire quella che è, naturalmente da un punto di vista maschile, ma anche condiviso da molte donne. Sono donne che sono felici di lavare i piedi ai loro ai pingui piedi dei loro mariti, dicendo che bello, questo è il nostro ruolo, ci sentiamo realizzate. Se sono felici può anche andare bene questo. Guida della buona moglie. 11 regole per rendere un marito felice e per diventare la moglie che lui ha sempre sognato. 1. Pianifica in tempo una deliziosa cena per il suo rientro. La maggioranza degli uomini arriva a casa affamata e questo è un modo per fargli capire che pensi sempre a lui e che ti stanno a cuore le sue esigenze. Ancora meglio se gli prepari il suo piatto favorito. 2. Fatti bella. Riposati 5 minuti prima del suo rientro, così ti fai trovare fresca e pimpante. Ripassati il trucco e fatti più bella possibile per lui. Ricorda che lui ha avuto una giornata pesante, trascorsa in mezzo ai colleghi. 3. Non è che sia un modello così arcaico, ma le famiglie di noi sessantenni hanno esattamente questo. Molte famiglie tuttora, a certe latitudini del nostro paese, sono queste. Donne che non hanno nemmeno il privilegio di avere accesso al conto in banca di famiglia, che devono chiedere ogni giorno i soldi al marito per fare la spesa. Donne che tacciono, donne che non hanno altro ruolo che quello di dispensare nutrimento, dispensare pulizia, dispensare lenzuola fragranti, calzini ben stirati. Donne che rimangono attanagliate ai figli, alle figlie soprattutto, per tutta la loro vita, perché le vorrebbero anche loro nel magico circolo delle donne sottomesse. Carlo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ascolto. Come stai, Gianluca? Ma questo, la mia salute è fuori discussione. Parliamo oggi del tema vero. Il punto di vista, secondo voi, corretto per relazionarsi al riconoscimento delle donne senza incorrere nelle violente e arcaiche dimostrazioni dell'ascoltatore che infiocchetta il pacco, ma nemmeno nelle ridicole ormai ritualità dell'8 marzo, che domani saremo tutti a dichiarare che bello o che schifo. Sono d'accordo, però dobbiamo anche riconoscere che ci sono tante donne che nel avere un mazzo di fiori o comunque hanno piacere. Riunirsi con le amiche, sì, hanno piacere. Ma infatti questo Nessuno glielo nega, possono farlo qualunque giorno dell'anno, però. Questo è vero, però è una ritualità che si ricollega alla commemorazione di tante operaie che sono morte. Io come precario nei Vigili del Fuoco, e tu ne sai qualcosa, sì, quando scrivesti un articolo bellissimo. Ah, precario, sono 10 anni che lei è precario dei Vigili del Fuoco, mi ricordo. Ancora continua, e tra questi ci sono anche delle donne, rarissimi esempi di grande coraggio. Donne pompiere. Chissà che un giorno lo Stato ci dia la dignità di continuare. Vabbè, adesso, scusa, caro, oggi parliamo di donne, non di vigili precari del fuoco. Mi fa piacere e sono con la tua causa, però non c'entra nulla. Patrizia. Buongiorno. L'ascolto. Volevo dire che molte donne escono durante questa festa perché è l'unica occasione che hanno per uscire. E non è una tristezza questa. Hanno bisogno di un pretesto le donne spesso per uscire, non sono come gli uomini che dicono vado a calcetto, vado qui, vado là. E non parlo del mio caso perché fortunatamente non sono io la persona in questione, ma conosco molte donne che mi parli di questa cosa, il pretesto per uscire. Perché le donne hanno bisogno di un pretesto? Perché si sentono sempre legate alla famiglia, si sentono in colpa, sono sempre legate ai loro doveri, per questo. Quindi, ma questo dove accade? Quando accade? In che situazione accade? Accade giornalmente, abitualmente, ne conosco tante di donne così, soprattutto quelle di una certa generazione, più grandi di me. Più grandi di me, sì. Più o meno che fascia d'età? 50 anni, 60, 65, hanno questo bisogno di uscire, però hanno bisogno di un pretesto, perché non è così spontaneo. Beh, ma è colpa loro, mica è colpa di nessun altro. Sì, però fa sempre parte di quel retaggio della donna. Ma perché c'è sempre questa paura che si apra al cielo, esca fuori il ditone divino con il fulmine in mano e dica ti fulmino donna o anche essere umano, perché tu oggi esci senza pretesto. È perché così loro aspettano la giornata ideale per vedersi, per uscire, per raccontarsi, non so. La vita è piena di infinità di occasioni di potersi vedere uscire. Se messa così è veramente triste, andrebbe veramente abolita per il bene delle donne. Basta, non avete più un pretesto una volta l'anno per uscire, così vi ingegnerete. Vabbè, peggio per loro. Vabbè, se uno ha la vocazione della clausura o della schiavitù, nessuno va a fargli niente, nessuno si può fare nulla. Poi si rende conto quanto è triste dire teniamola per le povere donne che almeno hanno un pretesto una volta l'anno per uscire. Ma per uscire, mica dico per pazziare, scappare di casa, fare delle cose che mai nella vita avrebbe voluto fare. No, per uscire, andare a mangiare una pizza. Sì, per andare a mangiare una pizza, vedersi con le amiche. Vabbè, ma mi mette una tristezza nel cuore infinita. Mi fermo un istante, 80024, è proprio vero che domani uscirete perché è l'unica volta che potete avere una scusa per uscire con l'amica e fare una pizza. Ditemi che non è vero, ditemi che questa cosa non esiste più al mondo. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Melog, cronache meridiane. Oh, they say when you marry in June. 3. Sì, dolce e interessante. La sua noiosa giornata lavorativa magari ha bisogno di vivacità. Tu devi fare il possibile per renderla interessante. Uno dei tuoi obblighi è distrarlo e allietarlo. 4. Metti a posto la casa. Deve essere impeccabile. Fa un ultimo giro per i principali ambienti della casa, giusto prima che arrivi tuo marito. Raccogli da terra i libri dei bambini, i giocattoli, eccetera, e pulisci con un piumino i tavoli. 5. Fallo sentire in paradiso. Durante i mesi più freddi dell'anno, devi accendere il caminetto prima del suo rientro. Tuo marito sentirà che è arrivato in un paradiso di riposo e ordine. Questo gli allieterà l'animo, e anche il tuo. Perché preoccuparsi della sua comodità ti darà un'enorme soddisfazione personale. Non vedo molta differenza rispetto a questo arcaico, detestabile per qualcuno, fantastico, meraviglioso, onirico, irraggiungibile desiderio di immagine femminile rispetto a quello che ci ha detto prima l'ascoltatrice, che sta già suscitando una grande reazione via sms, via messaggio, via telefonate. Dice: ma molte donne non hanno altra scusa per poter uscire di casa che l'8 marzo, lasciate almeno questa opportunità. Laura, buongiorno. Buongiorno, dopo qualcuno di stupidate che ho appena sentito, che ho appena letto, vorrei ricordare a quella signora che dice che le donne devono aspettare una scusa, che la generazione dai 60 ai 70 ha fatto il femminismo, ha fatto il 68, e non ha certo bisogno, perlomeno una sì, buona vabbè, parte. Ma sembra un po' male dire come le donne che hanno fatto le garibaldine, dai, è una cosa certo, che... Sì, è stato un bel momento, un momento interessante, ma non ha lasciato traccia, ha lasciato terra bruciata, ha lasciato solo disastri, secondo me. È stato un momento bello dal punto di vista ideale, ma poi cosa ci è rimasto in mano? Sciocchezze, perché le piace provocare, ma non è assolutamente vero, perché una parte di qualcosa è rimasto, alcune sì, leggi sì. Per esempio. No, quello le do atto, ma dico nella coscienza generale, sì, alcune leggi. Ma se voi non avete coscienza... Voi, signora, io guardi, sono suo coetaneo. Non hanno capito. Sì, e allora oggi mi dica il suo punto di vista, quale dovrebbe essere il senso... Il punto di vista è che questa è una giornata stupida, cioè non meglio quel domani, perché non è una festa, ma semmai dovrebbe essere qualcosa che impegna e non certo andare a mangiare la pizza. Secondo, forse è meglio non andarci proprio a mangiare la pizza, andarci quando ti pare, ma questo è il mio punto di vista. Mi fastidisce orrendamente, senti sempre tutti gli anni queste sciocchezze, sempre le stesse cose, voi che dite che provocate, poi non sa niente, e tutti gli anni questa ripetizione. Ma allora cosa bisogna fare? Abolirla? Sì, ma no, lasciarla passare come si lascia passare qualsiasi cosa, dal Natale alla festa del papà, queste sciocchezze, insomma, cercare di sopravvivere anche a queste cose, cioè far finta che non ci siano, di lavorare, però, perché alcune cose purtroppo non tutto non è rimasto, ma insomma cercare di fare in modo che qualcosa rimanga. Guardi, non voglio che la Laura mi fraintenda. Io non sono né l'uomo dalla parte le donne ipocritamente, né l'uomo che poi si dà di gomito con gli altri uomini. Riconosco che le battaglie donne hanno comunque mosso qualcosa nella società, ma siamo in un momento di terribile riflusso, però questo se ne rende conto, di terribile, osceno, terrificante riflusso in cui è un po' difficile prendere un punto di vista onesto, che non sia nostalgico, non sia ipocrita, non sia superficiale e non sia nemmeno nella più bieca reazione di dire come il signore prima mi faccio un fiocchetto al pacco e lo porto alla mia donna. Esiste una via di mezzo secondo lei? Ma glielo dico con sincerità e non voglio provocarla. Ma forse sì, in alcune categorie sì, per esempio le vede che ci sono i giovani 24, 25, 30 anni, quei rari che fanno figli, per esempio sono molto più attenti ai bambini, gli uomini. Se lei ci fa caso, queste generazioni non si vergognano a portare fuori il carrozzino, a cambiare il pannolino, eccetera. Per cui qualcosa è cambiato. Certo, sono numeri piccoli, sono, chiamiamoli nicchie come le pare, però ci sono. E certo che mio padre, probabilmente, anche se era una persona di un certo livello culturale, tutto quello che vuole, non l'avrebbe fatto. Questo è già qualcosa, ma io trovo che questo mai faccia parte nel saper vivere il mondo moderno. Oggi un uomo non può più nemmeno porsi questo problema. E bisognerebbe andare oltre, bisognerebbe essere così leggeri di testa, di coscienza e di atti, che questo non è più un problema. Lo fa chi gli tocca farlo con la mattina e alla stessa maniera, con la stessa leggerezza in cui fa un'altra cosa. Comunque, grazie Laura. Rebecca. Buongiorno. Corra Rebecca al telefono. Rebecca, però sveglia. Ecco, Rebecca, eccomi. Eccomi qua, buongiorno. Io ne faccio una questione non di sesso, ma di cultura e ignoranza. Nel senso, per me, io ho 59 anni, nessuno mi ha mai detto, nonostante venga da una cultura di padre padrone, ok, cioè mi ha messo tutta la vita ad emanciparmi, nessuno, uomo o donna, mi ha mai detto cosa devo fare e cosa non devo fare. Chi tenta di dirmi cosa devo fare, lo mando a quel paese. Conseguenza per ma me, lei vive una vita felicemente anarchica, svincolata. Guardi, liberarsi da un padre padrone, mi rendo conto, aspetti, liberarsi da un padre padrone, mi rendo conto che un'operazione di estirpazione dalle proprie viscere è già riuscita. Però è altrettanto riuscita a mantenere non solo cerchio di autonomia, non si è affratellata con nessun altro maschio, mi sembra aver capito. No, assolutamente, mi sono affratellata, mi sono sposata e tutto quanto, figli e tutto quanto. Quindi tiene suo marito abbastanza bada, nel senso continua a mantenere la sua autonomia. E il marito, siamo divorziati, però gli uomini che ne sono seguiti o che seguiranno eventualmente non mi tengono bada, cioè io quando sento una donna che dice, parlando di se stesso o di altre donne, la società ci impone, mi viene l'orticaria. La società, perfettamente ragione, guardi, ma che è reciproco, non dovrebbero nemmeno esistere gli uomini tenuti a bada dalle mogli o dalle fidanzate, gli uomini scendiletto, gli uomini succubi. Bisognerebbe avere una grande libertà di pensiero e dire viviamoci le nostre vite nella parte comune, felicemente, comunemente, nella parte indipendente, un grande indipendenza. Questo però mette in dubbio tutte le sacre strutture su cui pare si è articolata la società. Sentiamo Stefania. Stefania, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io a 40 anni credo che sto pagando lo scotto di secoli e secoli di tabù appiccicati. Me ne dica uno, perché sennò è teorica. Qual è uno? Che la donna debba lavare i piatti. Ma dove sta scritto? No, scusi, dove sta scritto? No, infatti io non lo rispetto. I piatti li lava chi ha più tempo. Insomma, non siamo. C'è anche la lavapiatti, l'hanno inventata. Esatto. È una macchina ma formidabile. Quella va svuotata e caricata. Quella sì, è una cosa noiosa. In modo il 50%, tanto l'uomo che la donna. Ma il segreto è avere soltanto un set di piatti. Quando è carica la lavapiatti lavata, qualcuno se vuol mangiare di tirarli fuori, quindi no, non lasci i piatti fuori. È il primo che rientra in casa la sera, perché la donna oggi lavora, non tutte stanno in casa, fortunatamente, dico io, a volte. Però guardi, a parole siamo tutti d'accordo, però dico la sincera verità, perché faccio un'autocoscienza reale. Esiste una sorta ormai di imprinting genetico, per cui certe cose, d'istinto, viene da pensare che debba farle la donna, ma è vero però non è giusto, non è meno reale, non è meno concreto. Capita tornare a casa e dire, oh, come non c'è niente da mangiare, e pensare un attimo fuggevole, ma perché nessuno mi ha preparato? Poi non pensa, nessuno ti ha preparato, perché evidentemente viviamo in un'epoca in cui non sta più scritto che tu debba trovare la frittatina pronta la sera se torni a casa. Beh. No, infatti, anche mio figlio gli ho insegnato, io ho tre bambini, due femmine e un maschio, e il bambino gli ho insegnato che se la sera non ritrova il letto rifatto se lo deve rifare da solo, perché non ci sarà sempre la mamma colsa dietro che gli deve fare tutto, e quindi deve pensare anche lui alle sue cose. Quindi Stefania, se vogliamo dare un senso comunque a questa riflessione sulla donna e capire, vivere il mondo moderno significa avere una leggerezza di pensiero tale che ci si toglie tutte le sovrastrutture che appiccicano ai generi dei compiti, però dopo viene un altro problema, però dopo le donne non ci riconoscono più il ruolo maschile, non pigliamo più responsabilità, non siamo più abbastanza maschi, non siamo capaci di prendere decisioni, perché l'uomo se alla fine delega e si alleggerisce tutto questo, è un po' meno uomo di come ce l'avete voi bene in testa fissato questo modello, eh? Riflettete su questo. L'uomo è quello che rispetta la decisione anche della donna, sì, in qualsiasi cosa della vita, sì, okay, della vita, sì, familiare. A chiacchiere, benissimo, va bene. Emiliana, andiamo avanti. Buongiorno. Vediamo se usciamo dalla teoria e arriviamo all'atto pratico. Buongiorno Nicoletti. Prima volta per me che intervengo in una trasmissione. E io sono sempre più sconcertata di queste feste che trasciniamo, un po' la responsabilità è anche nostra, ma veramente abbiamo bisogno, per avere una dignità, di avere questa festa? Vabbè, il tempo umano deve essere scandito da delle ricorrenze, questo sì, perché sennò impazziamo e mettiamoci in mezzo. Delle ricorrenze sono d'accordo con lei Nicoletti, però io devo avere il piacere di, io sono una donna di 62 anni che lavora ancora, e devo avere il piacere di pulire casa mia o di compiacere il mio compagno, perché deve essere un piacere, certo, non perché se è un gusto, va bene, mica e non perché lui se l'aspetta. E ci deve essere, io ho detto non il mio uomo, il mio compagno, perché in una coppia si deve essere compagni, ma ci deve essere rispetto reciproco. Secondo me stiamo sbagliando proprio l'approccio delle cose. Noi donne troppo spesso pieghiamo la testa. Beh, ogni tanto fa parte del piacere reciproco, però scusi, l'ha detto lei stessa. Ferma un attimo, Emiliana, devo riprendo con lei fra un istante, non le voglio togliere la parola, solo devo dare la linea, così continua bene, mi spiega bene questo senso del dover piegare la testa con il rispetto reciproco. Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Vi presento Melog, cronache meridiane. Sei, prepara i bambini. Prenditi qualche minuto per sistemare i bimbi. Spazzolagli i capelli e cambia loro gli abiti, se necessario. Sono i suoi piccoli tesori e lui vorrà vederli lucenti. 7. Evitagli il rumore. Quando lui arriva, spegni la lavatrice, l'asciugatrice e l'aspirapolvere. Fai in modo che i bambini stiano zitti. Pensa a tutto il rumore che lui ha dovuto sopportare durante la sua pesante giornata lavorativa in ufficio. 8. Cerca di sembrare felice. Regalagli un grande sorriso e dimostra sincerità nel tuo desiderio di compiacerlo. La tua felicità è la sua ricompensa per il suo sforzo quotidiano. Ammetto che le donne sono molto più generose di noi uomini, ma anche più implacabili nei momenti della vendetta e della ritorsione. E capisco anche che forse una volta dovrei farmi affiaccare da uno psicologo, qualcuno che veda nel profondo i messaggi degli uomini che mi arrivano via SMS. Io non dico nulla. Cosa leggete voi nel signore che mi scrive e quelle che aspettano la serata di striptease maschile per vedere le sode natiche depilate di energumeni in perizoma? Cioè lui sta allucinando il suo sogno erotico e con livore e cattiveria lo attribuisce alle donne. Sentiamo Esther. Esther, volentieri. Esther. Esther. Ma è una coppia, uno deve rispettare l'altro, non... Non si può alla sera, per esempio, dire tu devi lavare i piatti perché sono una donna, tu sei un uomo. Vabbè, ma ancora queste cose, ma questa cosa è un dibattito ormai che è fuori dal tempo e dalla modernità. Non facciamo, se riesumiamo ancora chi lava i piatti la sera, ma non è un problema, dovrebbe più esistere. È roba, diciamo, mettiamola anni 70, se proprio uno vuole, ancora, ma nelle famiglie ancora si discute chi lava i piatti. Comprate i piatti di carta, così si buttano via, non c'è più il problema. Non possiamo sprecare il nostro prezioso tempo nel disquisire chi debba lavare i piatti. Meglio non comprare i piatti, fuori dal tempo. Danila, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno. Qual è il suo problema? Buongiorno. No, io grandi problemi non ne ho, volevo solamente ribadire il fatto che nonostante il tempo passi e nonostante io abbia sono sulla cinquantina io e marito, in riferimento all'uscita, al fatto che le donne si fanno problemi ad uscire, che devono giustificare, di cui parlava l'ascoltatrice di prima, devo dire che anch'io, io non giustifico, però mi ritrovo spesso ad avere mio marito e mi sorprendo, che mi dice, ma come, ma dove, ma perché, questa serie di domande... Ma è geloso, ma per gelosia lo fa. Ma è un meccanismo inconscio, partiva la gelosia anni fa, ma secondo me adesso è diventata proprio l'abitudine al cercare di arrivare al possesso. E proponevo, visto che ci vuole la scusa settimanale per uscire, fatelo tutte le settimane la festa delle donne. Una sera alla settimana facciamo la festa delle donne e quelle che hanno paura vadano fuori una sera alla settimana che si sfogano. Ma la cosa migliore, Danila, sarebbe stabilire una cosa che poi a parole è molto facile, negli atti è sempre difficile, perché mantiene sempre, c'è sempre un clima poi di muta ritorsione anche nell'accettazione del patto, che in una coppia ognuno dovrebbe uscire senza dover dire all'altro dove va, ma stabilirlo proprio, guarda, non perché debba fare qualcosa, non me lo chiedere, io a te non lo chiedo, tu non me lo chiedi, tanto a dir cazzate siamo tutti capaci, a inventare scuse siamo tutti capaci, se uno vuole può infinocchiare qualunque altra persona e inventarsi medici, visite, impegni di lavoro, improvvise parenti ammalati, via dicendo. La cosa migliore sarebbe che nessuno chieda all'altro dove va, stabilire che magari un giorno a settimana ognuno ha un giorno di licenza in una coppia fissa e si fa quello che Piffero vuole senza che l'altro lo chieda, sarebbe molto più semplice, sarebbe destrutturato questo problema. Lucia. Buongiorno. Io sono un po' controcorrente perché io non festeggio la festa della donna, sono una libera professionista, faccio l'ingegnere, quindi una professione anche molto abbastanza maschile almeno una volta. Non c'è bisogno, secondo me, di festeggiarlo e volontariamente faccio la mamma, lavo i piatti, faccio le lavatrici, ma non mi sento per questo sminuita. Se mio marito arriva più tardi dal lavoro, che problema c'è se io gli faccio trovare la casa a posto, i figli curati, e i piatti lavati e la cena pronta? Ma non deve essere sentito come, secondo me, come un'onta. È una divisione dei compiti, se lei sta bene... Suo marito si tornerà tardi, probabilmente si farà il mazzo da qualche altra parte e aiuterà a mettere la gallina dentro la pentola che lei prepara. Infatti, quello che dico è che devono essere certo libere scelte, però anche i ruoli, la divisione dei ruoli è fondamentale, la mamma, il papà, la moglie, il marito. Diciamo che è anche giusto che non ci sia poi... Se una volta lei ha voglia di andarsi a fare una notte brava in un locale per sole donne, suo marito è giusto che sappia lavare i piatti e faccia questo. Sì, ma infatti mio marito sa lavare i piatti e sa cucinare, forse allora. Meglio di me, però il punto è questo, che io non se, cioè io credo che una donna per essere donna non necessariamente deve avere la necessità di uscire a fare una notte brava, magari con questi grandi bei maschioni, cioè non credo. Hanno detto maschioni, sia... notte brava può essere anche a chiacchierare e berzi una bottiglia con un'amica, ma non certo, è ma questo sicuramente è qualcosa che esce dal canone del quotidiano, che deve essere lecito, consentito, penso, non lo so. Ma io credo che quello che riteniamo oggi come oggi lecito, consentito, alla fine ci schiavizza molto di più di quello che è uno stereotipo che in realtà... Vabbè, lei faccia quello che faccia quello che la fa star bene. L'importante è che ognuno faccia quello che la fa star bene. Se lei la fa star bene a preparare il manicaretto al marito, ma va benissimo. Nessuno... Non esiste un modello da impugnare come il modello della libertà. La libertà è che io sono felice a fare quello che faccio. Corrado. Sì, buongiorno. Chiamo da Firenze. No. Quello che io riesco a percepire è la totale mancanza di libertà della donna. Allora mi spiego, nella parità dei diritti ci possiamo anche arrivare, però non c'è la libertà culturale di farli applicare alla donna. Faccia un esempio, sennò siamo sul campo della teoria. Si può fare sempre quello della famosa cena che una vuol fare con gli amici. Nessuno ti vieta di fare la scena, ma c'è la mancanza di libertà di capire che lo puoi fare. Beh, questo molte volte sì, però devi capire che c'è una stratificazione generazione e generazioni. Il senso di colpa non è che si estirpa in una sola generazione. C'è un senso di colpa atavico, ma anche negli uomini, anche noi ci sentiamo in colpa per altre mille cose e non sarebbe giusto ci sentiamo in colpa. Il senso di colpa atavico dice: ma sbaglierò qualcosa, sempre una mamma che ti punta il dito, dove io ho amiche ormai cinquantenni che non c'ho ancora le mamme che le chiamano la sera: dove vai, con chi esci, che fai, che non rende conto alla mamma che ha 80 anni cosa fanno. È proprio qui che si deve cambiare. E io provo a dire: ma scusa, perché rendi conto a tua madre che ha 50 anni? Poverina, le spezzerei il cuore. Abbiamo mai un universo sulla testa di mamme con il cuore spezzato, che se non ci decidiamo a spezzare il cuore alle mamme non riusciremo mai a conquistare la nostra libertà. Ecco. Ma perché la donna deve essere sempre additata come una zoccola se va a letto con 40 uomini? Vabbè, adesso non faccia la persona di grandi vedute. Anche lei, se ci vedesse la sua fidanzata o sua moglie, direbbe esattamente questo termine. Vabbè, abbiamo chiuso in bellezza. Buon 8 marzo.